Chi? Io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, lui, lei, l'altro, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, l'altro, io, lui, lei, per negazione non avrei mai dovuto lasciarti in mano la possibilità di esprimere l'ultimo giudizio, l'ultima scelta, dato che di volta in volta sul mio volto è il vuoto, dato che di volta in volta vuole credere ogni mio discorso, resto vago, non avrei mai potuto credere che questo mio leggero riconoscermi matura sei te, sciami di malessere, questo leggero lasciarsi perdere dietro bugie a rendere le mie solite idee, dovrei forse scappare, rinchiudermi dentro me, ricercare un ordine inferiore e poi ripartire, lasciarmi affascinare, reprimere, partorire, ah quanto dovrei bere anch'io un po' di questo amaro calice lindo e poi sputarci dentro un'ecatombe in panne in combe, oh l'ombra fa ombra, wow, dalla mia lucidità onirica e tutta d'un tratto dal mio tratto drago che lo sono, solo è solo ancorato giù nel mio baratro, è solo oggi che mi interpreto tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramuto l'odio, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramite io, tramuto l'odio, tramuto l'odio, tramuto l'odio, tramite io. Vengo da te perché so camo vedermi strisciare il mostro delle mie brame, ma lasciato scritto sullo specchio col rosso che l'avevo fatta esaurire nello stare sempre lì ascoltare, assecondare, sminuire. Adesso metto io un'immagine che farà brividire, che uomo di merda, l'unica condizione che toglie la propria luce in quell'unica fase sobria in cui entra in armonia con il suo male, in cui sta bene oggettivandosi epico, patetico, nostalgico, liturgico, vivo di capacità sintattica e logico, in cui plana apparente simbolo pindarico recandosi via, che uomo di merda, vive l'azione metà mentre l'altra metà no, impara un po' a dire no all'altro, meno organico ma al secolo, tutto resta in noca a quanto pare, nessuno sfugge, nessuna para alla vista dell'alito, pochi secondi di panico per pochi altri di fremito, cos'è? Ho inserito i gemiti, oh no, oh no, oh no, spezzato un coito.